24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Antonio Cadrigalà, 61 anni, calabrese, sposato con due figlie, magistrato, professore alla LUIS, autore di molti libri, allievo di Federico Caffè, un tecnico prestato alla politica, presidente dell'autorità garante della concorrenza del mercato dal 2005 al 2011, sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Monti, oggi vice ministro dello sviluppo economico del governo Letta, con delega alle telecomunicazioni. Dottor Cadrigalà, le privatizzazioni che ha annunciato Letta ieri, quanto porteranno allo Stato? Penso una decina di miliardi, ma non mi va di trattare i miliardi come noccioline. Insomma, bricioline però, non noccioline ma briciole più o meno. No, però una bella cifra, sì. Le useremo per ridurre il debito. Senta, il professor Guarino però, che è un esperto di privatizzazioni, dice che quelle degli anni 90 sono state un errore. Questi saranno meglio? Sì, queste sono obbligate. Quindi non è detto che siano meglio, sono obbligate. Le dobbiamo fare per forza. Senta, comunque, privatizzare è facile da dire, difficile da fare. Sarà una svendita di gioie di famiglia, insomma, come al solito. No, dobbiamo valorizzare al massimo il nostro patrimonio e venderlo al meglio. Ecco perché dobbiamo insistere perché il sistema Italia faccia squadra e dia valore ai nostri asset. Sì, ma quali sono stati i criteri di scelta per le società da privatizzare? Credo che abbiano studiato bene al Tesoro, scegliendo tutto ciò che è privatizzabile. Ma senza che può valere di più, quello che può valere di più? Quello che può migliorare mettendolo sul mercato, rendendo contendibili effettivamente alcuni asset. Anche l'ENI c'è, no? L'ENI mi pare per una cifra piccolissima. Una quota. Maggiore, per esempio, è la quota di SACE, perché in Europa non ci sono assicurazioni in mano allo Stato. Senta, ma il brand Italia comunque è sceso di 4 punti nelle classifiche mondiali. È il segno della crisi? Sì, è un segno di crisi. Un brutto segno di crisi. Sì, è un segno tangibile di crisi. Ecco perché noi dobbiamo riportarlo su, perché quando salirà il brand vuol dire che saremo usciti dal pantano. Bastano queste vendite per portarlo su? Assolutamente no. Deve riprendere la produzione industriale. Ecco, ma Letta, in questo stato di fibrillazione, lo scontro tra Berlusconi e Alfano, tra Renzi e Letta, riuscirà a farle queste privatizzazioni? Sì, ci riuscirà. Siamo sicuri? Io sono sicuro che ci riuscirà, è una persona determinata, anche se il suo carattere è mite, non mi sembra che si faccia fare delle prepotenze. Senta, ma la separazione tra Berlusconi e Alfano, secondo lei, è una rottura o una diversificazione del rischio? Ma no, nella storia del nostro pensiero politico sono sempre state ammesse, considerate bene, sia le scissioni sia le aggregazioni. Quindi, questa è una scissione benefica. Quindi potrebbe essere una diversificazione di rischio. Sì. Ecco. Lei era dato con Berlusconi, resta con lui, dove si mette? Io non sono dato con nessuno perché sono un tecnico al servizio del paese e sto con i cittadini. Senta, quindi resiste, diciamo resta. Certo, faccio il mio dovere. Senta, ma come fa a reggere un governo, secondo lei, che ha 5 ministri che rappresentano una minoranza? Perché sarà nella storia del paese, ma quella una scissione è, e c'ha 5 ministri. Ho sentito parlare di rimpasto a gennaio, ma non ci credo. Non ci crede? No. E allora come fa a resistere con questi? Resiste perché non credo che Berlusconi voglia togliere completamente la corrente a questo governo. Senta, lei non è deputato, ma avrebbe votato pro o contro le dimissioni della Cancellieri? Avrei votato contro le dimissioni della Cancellieri perché penso che non si sia comportata in modo disonesto. E quindi era da tenere lì, secondo lei? Sì. Senta, prima era sottosegretario con Monti, adesso con Letta. C'è continuità fra i due? C'è stata continuità nel rigore metodologico, un po' meno nel rigore finanziario, però è arrivato il momento. Cioè, chi è più rigoroso finanziariamente? Monti è stato più rigoroso. Più rigoroso. Cioè, Letta un po' più di manica larga? No, diciamo che è arrivato il momento di dare un po' più di fiato alla nostra economia. Ecco, la differenza più grande fra i due caratterialmente, per esempio? Mi sembra che Letta sia più propenso ad ascoltare le ragioni degli altri. Senti, quindi meno arrogante, diciamo. No, non è che Monti fosse arrogante, era un professore con la tutte le sue caratteristiche. Tutta. Senta, molti pensano che in realtà sono bravi tutti e due in giro per il mondo, in Italia però siamo un po' fermi. Tutti e due hanno un grande prestigio internazionale, non è colpa loro se in Italia siamo fermi. Beh, un pochino, sono il Presidente del Consiglio. Sì, ma non è che il Presidente del Consiglio riesce a mobilitare la produttività ma nelle fabbriche. Ma chi è che mobilita? Non si capisce chi comanda in Italia. Chi comanda? In Italia c'è grande crisi di potere, questo lo sappiamo. La solo Napolitano commenta. Indubbiamente, e per fortuna c'è una persona alla quale rivolgersi. Senta, sì. Le larghe intese dovevano fare le riforme, non riescono a fare neanche quella elettorale. Ma che senso hanno queste larghe intese allora? Le larghe intese è un altro atto dovuto, non si poteva fare diversamente. Ma dovuto, ma cioè, se non si fa niente a causa... No, io penso che adesso c'è una sentenza di Corte Costituzionale che dobbiamo aspettare. Vediamo come deciderà la Corte e in conseguenza ci sarà anche la riforma elettorale. Vabbè, ho capito, voteremo col Porcellum di nuovo. Speriamo questo, di no. Però mi pare di sì. Senta, Monti dice che lui ha pensato a salvare l'Italia. Letta dice io rilancio l'Italia. Il risultato... che l'Europa ci ha rispedito a casa la legge di stabilità. Parole. No, questa volta anche fatti, mi pare che andremo a Bruxelles a far capire uno che la legge di stabilità è rigorosa, due che non ci possono strangolare con delle regole che sono inaccettabili. Insomma, questo 3% va sfondato, diciamocelo. No, questo vincolo va interpretato bene. Come dice Guarino. Sì. Senta, ma è meglio tassare la casa e ridurre il cuneo fiscale o tagliare la spesa pubblica e mettere un po' di soldi in busta paga agli italiani? La seconda che ha detto, ovviamente, noi dobbiamo cercare di dare agli italiani la possibilità di spendere di più. Se cresce la domanda, crescerà anche l'offerta e la produzione. Senta, però, intanto, i dati sulla distribuzione della spesa sociale in Italia sono abbastanza allarmanti. Dicono che non c'è quasi nulla per il disagio. Per le famiglie, nulla per i giovani, con 40% di disoccupazione giovanile. Non è una follia? Sì, purtroppo è il segno della crisi ed è questo che stiamo cercando di combattere. La distribuzione della spesa sociale non la faccio io però. Sì, è vero, la distribuzione la fa il Parlamento. Noi dobbiamo cercare di essere il più equi possibile, ma anche più efficienti possibile. Ma lei è favorevole al salario minimo di sussistenza? Ma chi potrebbe essere non favorevole? Ci mancherebbe, il problema è trovare le risorse. Vabbè, quindi insomma una bella le risorse idea non che ci non... sono. Quindi una bella idea da tenere lì. Senta, l'ex ministro dello sviluppo Passera diceva che per utilizzare i soldi della privatizzazione serviva un'ideona, però non c'è stato tempo per lui. Voi avete un'ideona oppure aspettiamo il prossimo governo? Non ho mai creduto all'ideone, credo alle piccole azioni, al dovere che ciascuno di noi deve fare nel proprio ruolo al governo. Però qualche idea bisogna averla. Sì, ognuno ha le sue idee, io ho le mie relative al mio settore, quello delle telecomunicazioni. Adesso ci arriviamo. Senta, lei a 27 anni era un avvocato dello Stato, bravissimo, cioè già allora un tecnico e non un politico. Sa come si scrivono le leggi, che percorso devono fare, in questo è un maestro. Insomma, i politici passano, i tecnici restano, siete una casta sostanzialmente. E i giornalisti siete una casta? Ah sì, secondo me sì, ecco, io penso che per i magistrati che lavorano al governo non si parli più di casta, si parla di gente che è prestata contro il proprio interesse economico a fare un lavoro probabilmente più complesso e più rischioso. Ma lei guadagna più dei deputati? No, io al lordo guadagno più di un deputato, al netto guadagno meno di un deputato. Perché il lordo netto è così diverso? Perché io non ho le indennità che hanno alcuni, che hanno tutti i deputati. Senta, per esempio la diaria, solo per dirne una. Senta, ma rinunciano tutti, se basta diaria. Senta, ah sì, hanno rinunciato? No, non lo so, dicono. Se, lei dice di no. Senta, ma visto col suo occhio da fuori, da tecnico, mi dice una cosa sicuramente di sinistra da fare? Ma intanto secondo me di sinistra togliere completamente l'IMU dalla prima casa. È di sinistra? Sì. Perfetto. E una di destra? Togliere l'IMU dalla prima casa. Ah beh, allora lei è troppo furbo, va bene, ho capito. Allora l'unico di sinistra è Berlusconi che vuole togliere l'IMU. No, è anche l'unico di destra a questo punto. Va bene, ok, perfetto. Senta, nel mondo domina la turbo finanza speculativa. Senta cosa ne diceva di questa turbofinanza speculativa il suo maestro Federico Caffè. Da tempo sono convinto che la sovrastruttura finanziario-borsistica, con le caratteristiche che presenta nei paesi capitalisticamente avanzati, favorisca non già il vigore competitivo, ma un gioco spregiudicato, di tipo predatorio, che opera sistematicamente a danno di moltissime categorie di risparmiatori sprovveduti, in un quadro istituzionale che di fatto consente e legittima la ricorrente decurtazione o il pratico spossessamento dei loro soldi. Insomma, in sostanza, come si torna all'economia reale? Caffè nel 72 lo diceva. Sì, bisogna avere meno... diceva Caffè, meno senso di obbedienza ai vincoli contabili, bisogna avere più sensibilità per i bisogni umani. E un bisogno umano è quello di lavorare, produrre e vedere il compenso della propria produzione. Noi dobbiamo incentivare i giovani al lavoro. Cioè, basta turbofinanza, avanti con l'economia reale. Questo bisogna, è il senso. Noi siamo un paese industriale, dobbiamo tornare a essere noi stessi. Sì. Senta, lo zar dei tagli, dottor Catricalà, e il professor Cottarelli, dice che al tesoro inglese c'è una sola auto blu. Al Ministero dell'Economia, dove sta lei, quante ce ne sono? Io sono allo sviluppo economico, ce ne sono molte di più, manca la benzina. Manca la benzina, quindi sono ferme. Ma sì, la mia praticamente mi accompagna da casa in ufficio, saranno pochi, 2-3 chilometri, e mi riporta. La domenica ne faccio a meno, non ho bisogno... Insomma, non rinuncia però, quella lì se la tiene per il trasporto. Ma guardi, la tengo non per altro, perché non avrei dove parcheggiare. Se capita a tanti italiani. Senta, nel frattempo l'Italia però, lei non rinuncia alla macchina, ha rinunciato alla Telecom, che ormai è degli spagnoli di Telefonica. Ma non è un errore? Dunque, l'italianità va difesa quando insieme alla bandiera c'è anche da difendere la qualità. Telecom quindi va difesa perché c'è la qualità, però che cosa va difeso? Va difeso la qualità e la quantità dell'occupazione, va difesa la rete Telecom perché è una rete strategica, vanno difesi gli investimenti. Se chiunque venga ci garantisce queste tre cose va bene, e la sicurezza benvenga. Nazionale benvenga. Senta, Telefonica acquisterà Telecom senza la rete? Ci crede solo lei? No, Telefonica se acquisterà Telecom, perché a questo punto bisogna vedere come sarà giocata la partita, avrà in pancia anche la rete. Per questo che allora lo scorporo, per questo che lo dobbiamo scorporare. Ma no, subito, prima di vendere. No, ma io credo che questo non possa essere fatto, deve essere poi la società che scorpora la rete, così come aveva già deciso Telecom prima di fare. Vabbè, a babbo morto. No, immediatamente. Se la terranno tranquillamente, probabilmente. Se la terranno, ma con maggiore difficoltà di rapporti con il governo. Vabbè, insomma, intanto i governi passano, le reti restano. Senta, perché dovrebbe accettare Telefonica di scorporarla, anche se dopo, come dice lei? Perché prima di dovrebbe tutto, perché per il rapporto col governo? No, prima di tutto non è uno scorporo proprietario, ma è uno scorporo societario. Poi avrebbe un grande partner che è la Cassa Depositi e Prestiti. In più avrebbe la possibilità di far gravare sulla rete ben 22.000 dipendenti e esperti e una parte di debito. Quindi sarebbe un affare anche per Telecom. Però io le dico questo. Telecom senza la gallina delle uova d'oro che è Telecom Brasil, senza la rete, alla fine compra una montagna di debiti, poco altro. No, perché compra comunque una serie di clienti con i quali potrà ricominciare a fare servizi in senso vero. Telecom ha avuto delle minori facilitazioni nella disciplina regolatoria semplicemente perché era proprietaria della rete. Senta, sarà più libera quando sarà senza rete. Non mi ha convinto. Senta, ma se anche Telefonica, come è vero, è piena di debiti. Allora, Telecom piena di debiti, Telefonica piena di debiti, si sommano i debiti tutto sulle spalle di chi? Beh, i debiti gravano sulla società, questo ma non c'è dubbio. Se si sommano solo debiti. Ma se l'avessero chiesto a me di andare con Telefonica avrei detto di no, non me l'hanno chiesto. Ah, ecco, va bene, lei è contrario alla vendita a Telefonica, d'accordo. Infatti noi siamo rimasti l'unico paese europeo senza telecomunicazioni nazionali. È perché siamo più intelligenti di tutti? Io non sono contrario alla vendita telefonica, io dico che il mercato deve fare il suo gioco e che il governo deve avere dal mercato alcune garanzie. Poi noi siamo rimasti senza telefonia, non è vero, noi abbiamo Telecom che è ancora italiana. Ma ancora per qualche ora. Abbiamo... Certo, la proprietà è una cosa, ma queste aziende restano italiane. Sì, non è però, che Wind non no, è italiana. Però io le voglio Vodafone dire una cosa, dottor Cadricalà, una cosa che lei sa meglio di me. Gli eserciti del futuro sono le telecomunicazioni, lo stiamo vedendo in tutto il mondo. Avremo solo un esercito mercenario, sostanzialmente, comunque sia. Ma no, non è così. Ormai i mercenari nel mondo degli affari ci stanno sia in Italia sia all'estero. Con chiunque abbiamo a che fare sono imprenditori. Però tutti i paesi europei hanno conservato pubbliche le loro telecom. Questo ma è un noi fatto. Dobbiamo considerare di essere parte di un sistema che è un unico mercato europeo. Ormai soprattutto per il digitale. Però gli altri se ne sono tenute. Hanno avuto più forza finanziaria. È il gioco del mercato. Ah, perfetto. Allora, se si poteva era meglio tenerla. Certo. Bene. Senta cosa dice Gian De Benedetti dei famosi capitani coraggiosi che hanno privatizzato Telecom e Anitalia. Colarino arrivò lì, utilizzò la cassa dell'Olivetti per iniziare la distruzione della Telecom. Poi fu proseguita con grande intensità. È successo, mi pare, nel distruggerlo. Uno si ritrova, un liberista come me in economia, si trova a dire viva le partecipazioni statali. Ma dottor Carigalà, viva le partecipazioni statali. No, indubbiamente quella fu una privatizzazione sbagliata perché fu privatizzata anche la rete, laddove la rete poteva benissimo restare pubblica, però c'era un problema di fare cassa, entrare nella pattuglia di testa nell'euro. Vabbè, in senta, Europa c'erano delle ragioni. Alla fine la Telecom, prima delle partecipazioni, era straordinariamente forte in Europa. Adesso siamo ridotti a questa montagna di debiti. Senta, gli arabi hanno speso 100 miliardi di dollari per rinnovare la loro flotta aerea proprio in questi giorni. Ma ha senso tenere ancora in piedi una compagnia come l'Alitalia? Ma guardi, la compagnia di bandiera ha un senso se effettivamente riesce a convogliare verso l'Italia turismo, se riesce a farla diventare un hub. Vabbè, per ma gli negli altri stati, paesi. Nella situazione della contingenza attuale, c'ha senso o non c'ha senso? Ha senso se ci aiuta a portare in Italia ricchezze e turisti, altrimenti non ha senso. Ma l'Air France è fuori definitivamente? Io credo di no, per quanto ci stanno anche altri possibili aspiranti a un asset come l'Italia. Quindi l'Air France che ha detto sto fuori sta facendo una trattativa in realtà. Io penso che stia trattando, ma penso anche che ci siano altri possibili acquirenti. Tipo? Ma ce ne arabi? Stanno. Ma io non voglio dire chi, perché siamo a borse aperte, stiamo a vedere che succede. Va bene, senta, lei è stato il primo a parlare di privatizzazione della RAI, adesso sembra che abbia cambiato idea, perché? No, io ho parlato di privatizzazione di qualche asset della RAI quando la concessione era in piedi ed era bella lunga. Ora siamo a 2 anni dalla scadenza della concessione e mi pare che parlare di privatizzazione sia veramente antieconomico, sarebbe un fuor d'opera. Quindi non è e non sarà sul mercato fino al 2016, poi si vedrà. Io penso proprio di no, venderemo un asset privo di valore. Senta, i cittadini però non sanno quali sono i programmi che si fanno con i soldi del canone che intanto loro pagano, anche se è una grande evasione. Perché devono continuare a pagarlo sto canone se non sanno che cosa pagano con i loro soldi? Io mi sono posto questa stessa domanda e lei stesso se l'è posta diverso tempo fa. La risposta è che devono indicare i programmi RAI se sono finanziati o meno con i soldi dei cittadini. E quindi questo famoso bollino di cui si discute nel contratto di servizio che state rinnovando fra la RAI e lo Stato ci sarà obbligatorio, questo sta ci dicendo? Ci deve essere nella mia visione e io credo che non demorderò e credo che non firmerò un contratto di servizio che non abbia con sé il bollino per il programma, perché è l'aspetto più rilevante oltre al fatto che abbiamo tolto la pubblicità dai programmi che riguardano nelle fasce dei i bambini. Minori. La RAI ha accettato con tutti i voti favorevoli e una sola astensione questi due aspetti, se adesso fa marcia indietro non troverà un governo che faccia quindi, marcia indietro. O bollino o morto. Senta, quindi nel nuovo contratto di servizio, no, ma per lei esattamente che cos'è che identifica il servizio pubblico? Che vuol dire servizio pubblico? Tutti ne parlano e pochi dicono che guardi, cos'è. Guardi, per me il servizio pubblico è l'intera programmazione RAI, quindi certo, non è solamente i programmi predefiniti, non è solo l'informazione o l'approfondimento, anche l'intrattenimento. Certo, lo assolutamente, però è un'idea del palinsesto che corrisponde a dei principi. Esatto, però è chiaro che deve essere gestito il tutto con il pluralismo informativo e l'imparzialità di un servizio pubblico. Ecco, ma laddove non ci siano queste due garanzie per i cittadini, siamo fuori del servizio pubblico. Senta, ma E oggi la RAI lo è in modo sufficiente, servizio pubblico, secondo lei? Io penso che possa migliorare, tutto è perfettibile. Vabbè, certo, vabbè, insomma, diplomatico. Quindi è sicuro che gli italiani la pensano come lei in questo momento? Io penso che gli italiani vogliono sapere come sono spesi i loro soldi. Ecco. E però, prima della concessione, del rinnovo nel 2016, li vogliamo intervistare bene, uno per uno. Bene. Una grande consultazione, come è successo nel Regno Unito, prima di ridare alla BBC la nuova concessione. Quindi grande intervista agli italiani per sapere che RAI vogliono, sì, che servizio può. Ecco, e questo vertice secondo lei è quello giusto per fare arrivare la RAI al 2016 in modo convincente? Sì, in modo convincente ce lo diranno i cittadini con la consultazione che faremo, però arriveremo al 2016 con questo vertice. Senta, dottor Cadrigalà, torniamo come ultima domanda alla politica. Dopo tutto quello che è capitato in questi giorni tra Berlusconi e Alfano, tra Renzi e Letta, sul caso Cancellieri, le elezioni sono più vicine? No, io penso che voteremo non prima del 2015. Grazie. A lei. Mix 24. Arabi, normanni, fenici, barbari, sicani, quattro proci, erano 3000 quanto i greci, c'era un santo nero e gli africani. Sono passati secoli e le facce sono rimaste tutte quante uguali. Siamo figli di chi ha dominato, mezzi cattolici e mezzi musulmani. Pietrangelo, perché? Questa canzone, che cosa ci dice? Ci dice che, lasciandoci alle spalle l'Europa in musonita, finalmente ritorniamo al Mediterraneo, e ritornando al Mediterraneo ci apriamo al mondo, perché tutto il mondo ci specchia in noi. Ammazza, per fortuna. 800 24 00 24, numero di SMS 349 238 6666. Che titolo avreste fatto l'intervista di Cadrigalà? Abbiamo molte reazioni. Il teletecnico. Il teletecnico. Tu? Beh, siamo passati dalla età dei sondaggi a quella delle interviste, quindi Cadrigalà domanda, l'Italia risponde. Cosa bolle in pentola? Sigla. Allora, ma cominciamo con cose teutoniche. La Germania crescerà ancora. Parliamo ovviamente di prodotto interno lordo, oppure la fiducia dei tedeschi nell'economia cresce un po' lentamente, diciamo, però sono tutti segnali che per il 2014 la Germania avrà un anno abbastanza positivo, se non molto. Sai, al nord si muovono, sono agitati, perché? Sono io, William Wallace. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita? Ma non ci toglieranno mai la libertà! Mario, lasci fare una bolla anche a me? Dai. Un SMS che dice: perché a Befera non ha fatto un'intervista come questa? Non che oggi sia stato chissà cosa, ma almeno un po' Cadrigalà lo ha incalzato con Befera e Razzerbino. Vabbè. Caro telespettatore, si migliora. Ascoltatore, grazie. Comunque possiamo mandarlo in prima linea con William Wallace, che è intervenuto poco fa, perché io vorrei ricordare che gli scozzesi nel 2014 devono votare l'indipendenza. C'è un grandissimo dibattito in corso, in Italia non se ne occupa nessuno. Consiglio per gli appassionati del genere la lettura di un pezzo di Martin Wolf. Oggi sul Financial Times. Sentite come Times. Si eccita il sardo davanti all'indipendenza. Ma anche il siciliano non scherza in genere. Noi siamo io ce ne scampi l'indipendenza in questi periodi con Crocetta in giro. Scusa, volevate andare sempre in America? No, io voglio commissariata la Sicilia. Dio ce ne scampi. Ricordati una cosa: che nonostante le alluvioni eccetera, la Sardegna resta sempre un'isola molto forte. E il detto degli inglesi, anche un po' nostro, che fu quello famoso, il titolo del Times: tempesta sulla Manica, il continente isolato. Quindi io ricorderei queste cose qua. Naturalmente, poi, che è tempo di Salamini. Salamini. C'è un'immagine per i viziosi. I viziosi nel senso dello spirito, della castità, hanno Bernanò, i dialoghi delle carmelitane. C'è l'ultima carmelitana che sale sul patibolo per affrontare la morte, E siccome adesso da Milano è arrivata questa idea del sistema prostitutivo definitivamente segnato nelle pagine che Ilda Boccassini ha affidato alla storia, indicando in quello che pensavamo fosse un donizettiano elisir d'amore, quello di Silvio Berlusconi, invece in una satrapia orgiastica, beh, c'era una volta la sinistra che amava tutto ciò che era... La chiamavano bocca di lussuria, che era un'idea libertaria, adesso invece non lo è più. E basta. E allora a questi testimoni di quella che fu l'idea tutta lazzarona della libertà, libertata, beh, un po' di De André. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie volontà. Mario, è l'ora di? Mario, la Germania cresce perché ha una cultura politica di prim'ordine e soprattutto c'è gente seria, ci dice un radioascoltatore. E soprattutto non hanno Renzi. No. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday. Allora, è andato stamattina ad Agorà, ogni giorno ce n'è uno, è meraviglioso, io lo sto seguendo con grande interesse e ha detto un'altra cosa fondamentale. Io non sono contro Letta, sono per l'Italia. Scusa, ti dico la verità. Scusa, un minuto, un sillogismo, com'è che ha detto? Io non sono contro Letta, sono per l'Italia. Allora, quindi, secondo il sillogismo aristotelico, se lui è per l'Italia e non è contro Letta, se ne deduce che Letta è contro l'Italia. Sì. Avrà Letta. Ah, la teoretica, la teoretica. È duro diventare segretario del PD, è ancora un percorso lungo, ma ce la farà di sicuro. Non lo so, vediamo. Sì. Intanto io amavo i P-Days, e proprio se a Renzi preferisco l'originale, Fonzi. E... Allora, cose serie. 50 anni fa veniva ucciso a Dallas, data di oggi, JFK. Il centro di Dallas è blindato, Obama non ci sarà, sono attese migliaia di persone alla Daily Plaza, teatro della commemorazione che è denominata il cinquantenario praticamente della memoria di Kennedy. Gli uffici pubblici a Dallas resteranno chiusi, Obama ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese. Te ne occuperai anche tu oggi nella puntata della storia, quindi è un momento importante molto per gli Stati Uniti. Segnalo sempre per stare su cose americane, ma stavolta non politiche o storiche ma tecnologiche, che a Samsung un brevetto è costato 930 milioni di dollari nella causa contro Apple perché ne ha violato i contenuti. Scusa, io ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. A Mario, scusa. Un'ultima cosa, sempre ai tech, legata alla creatività italiana, ma non italiana in questo caso, ma americana, perché noi la creatività, come abbiamo segnalato l'altro ieri, non la sfruttiamo. Spotify, che è un servizio musicale online, è valutato la bellezza di 4 miliardi di dollari. Tu sei abbonato, Giovanni? Accidenti, no, io non sono abbonato, però forse conviene. Beh, diciamo che è molto interessante. Tu sei abbonato? Sì, è fantastico. Ha cambiato completamente il mio modo di ascoltare la musica. Perché? Sì. Perché ti fa le selezioni in base ai tuoi gusti, ti dà le classifiche paese per paese e per esempio nella primo posto Ti piace una cosa nuova, come fai? Appunto, stavo per Senti la cosa nuova, al primo posto della musica pop. Bella magia. Tu Pietrangelo sei abbonato? Io sono abbonato solo a Topolino e poi c'ho l'abbonamento dell'ADA. Ok. Allora dopo la viabilità parliamo di televisione. Televisione di qualità. Chiederemo al professor Simonelli, storico della televisione, dove era il canone ieri sera. Ne abbiamo parlato prima abbondantemente di problemi della televisione. Chiamate l'800 24 00 24 per dirci quale trasmissione vi è piaciuta di più ieri sera e soprattutto dov'era il canone. Mix 24. Stiamo in diretta su Radio 24, 9:45, 38 secondi, il nostro numero 800 24 00 24, sms 349 238 6666, se volete segnalarci un programma che vale il canone secondo voi, chiamateci. Intanto, professor Simonelli, dov'era il canone ieri sera? Dunque, ieri sera il canone era su Rai 1 nella fiction Una grande famiglia, non tanto in sé, per i pregi o i difetti che questa fiction ha e di cui abbiamo già parlato, ma perché in settimana è successa una cosa che non è stata, a mio parere, abbastanza approfondita o è stata letta in maniera un po' superficiale. Non so se vi siete accorti, ma è andata in onda su Sky una miniserie intitolata I delitti del Barlume con Filippo Timi, e si è detto da più parti che questa serie è una serie non da Sky ma piuttosto generalista, una serie che con qualche aggiustamento sarebbe potuta essere tranquillamente sulla Rai. Allora provo a fare un ragionamento, vediamo se convince voi e magari se convince anche Catricalà. E soprattutto, no? Se convince i radioascoltatori. E cosa è accaduto? È accaduto che per la prima volta un prodotto Sky è fatto sul modello Rai, che è una cosa mica da poco, una cosa rivoluzionaria. Sky si è sempre caratterizzata, soprattutto nell'ambito della fiction, per aver seguito un modello americano. Si diceva, no? Sky propone le grandi serie americane che sono belle mentre le nostre sono scadenti. Sky ha fatto degli esperimenti americaneggianti. Il fatto che Sky si sia convertita all'italianità del prodotto è un passo avanti. È un passo avanti. Insomma, dire che questa fiction Rai, così bistrattata da una certa critica, ha fatto scuola. Io vorrei che su questa cosa si riflettesse un po' di più, perché il canone è una cosa importante. Ecco, il canone, professore, a proposito di canone, c'è chi dice il canone ieri sera era su Rai Storia con le grandi battaglie del 1916 della Prima Guerra Mondiale. Gaetano, grazie. Prego, professore. Io su questo sono un po' perplesso, perché ieri sera, ad un certo punto, dopo aver visto la fiction, ho fatto il mio classico giro di canali per controllare che cosa succedeva, e sono stato sorpreso che soltanto una rete, che non era Rai ed era Cielo, parlava di Kennedy. Ora, è vero che l'anniversario è oggi, ma gli anniversari bisogna anche un po' prepararli. Allora, il fatto che soltanto Cielo, con un documentario sugli ultimi momenti di Kennedy a Dallas, no, non particolarmente originale ma neanche proprio trascurabile, fosse su quella notizia, mentre Servizio Pubblico ancora raccontava dei problemi del PD, mentre professore, mi scusi, devo dare una risposta a Carlo che ci ha mandato l'SMS. Salve, a furia di spacciare telefonate e SMS come da ascoltatori, mentre sospetto roba vostra sia interna, state perdendo il contatto con la realtà. Come vedi, Carlo, sei tu forse che lo perdi, perché noi ce l'abbiamo con i nostri SMS e le nostre telefonate. Professore, continui. Mi ha sorpreso il fatto che nessuna delle reti pubbliche, ma anche delle grandi reti commerciali, avesse preparato un po' questo anniversario che, come avete detto e come farete voi tra poco, insomma, è assolutamente da ricordare, da celebrare con una certa profondità e con una certa attenzione. Mi è sembrato che, quando ho visto che Vespa raccontava dei cervelli che fuggono e rientrano, che Santoro raccontava le tristezze del professore, mi è sembrato un fine serata un po' provinciale di fronte, insomma, alla possibilità di riprendere invece questo grande racconto che è il racconto di Kennedy. Comunque magari ci si potrà rifare oggi, perché l'anniversario è oggi. Professore, c'è chi dice che era passepartout di Philippe Daverio il servizio pubblico, peccato che le cose belle finiscono, dice Federico. Ma quali erano, professore, scusi, sono buttafuoco, buongiorno, sì. Quali erano queste tristezze di Santoro? È la solita storia del PD, insomma, mi sembra che queste rimarie del PD, insomma, che sono sicuramente una cosa interessante. Ma quindi non hanno parlato di Rubbi. Un teatrino infinito, Teatrino? Ne volete un assaggio? L'8 dicembre, non lo so. Ce l'ho. Teatrino. C'è un teatrino del PD, c'è di nuovo Renzi. Allora, sai cosa è successo? Che cosa è successo? Se le danno di santa ragione con D'Alema. Questo è vero, abbiamo visto. Allora, ha detto ad Agorà, era convinto di vincere, ed è stato battuto da un ignorante come me. Se continuano così, arrivano al congresso tutti ammaccati. Vabbè, l'ignoranza è la veste della democrazia. Dov'era il canone ieri sera? Questa mi sembra forte. Dov'era il canone ieri sera per voi? Mario, dov'era? Non c'era. No, cessante da Pordenone. Non c'era comunque per me. Pronto? Sì, Sante, prego. Sì, buongiorno. Dov'era il canone buongiorno. Ieri sera? Sante, chiamo sì. La provincia di Pordenone, sì. Cane. Sì, sì. Niente, ieri sera io ero tranquillamente a casa, sono un abbonato Sky, no, da 20 anni. E una cosa che ho notato, che comunque al di là che la televisione pubblica secondo me si sta un po' perdendo per strada, e anche Sky sta perdendo punti secondo me. Allora no? Basta televisione, questo vuol dire? Non lo so, la televisione è ormai un oggetto che è in tutte le case, loro lo sanno, no? Ma non so, non capisco. Vabbè, perché c'è una domanda da fare al professore? No. Grazie. No, no, allora, grazie. Una testimonianza. Film su Rai 3, su Assassinio di Lincoln di Redford, dice un signore che ci scrive un SMS. Intanto volevo chiedere a voi dove era il canone. Tu hai detto, Mario, che non c'era, non l'hai visto? No, non l'ho sentivi visto perché musica? Leggevo. Che cosa? Shakespeare. Io sottoscrivo invece la segnalazione del professore. Quello sceneggiato o fiction. Come si dice? Sceneggiato o fiction? Fiction, si dice fiction. Ma perché non si dice più sceneggiato? Perché era diverso lo sceneggiato. Era diverso. Un po' diverso, ah, sì. Questo mi sembrava uno sceneggiato. Sembra un grande racconto nello zeitgeist italiano. Ci sono tutti gli elementi, tutti gli ingredienti, anche politicamente corretto e pedagogico, educativo. Zeitgeist lo traduciamo. Lo spirito del tempo. Però è più bello dirlo così. Perché ti sembra che soltanto Severinini possa parlare in inglese? No, in questi giorni si è sentito parlare di Agon Channel, una televisione albanese acquistata da un imprenditore italiano che ha intenzioni serie, Francesco Becchetti. Lei è un imprenditore, perché una televisione in Albania? Guardi, il nostro gruppo è presente in Albania nel settore delle grandi infrastrutture dal 1993. Parallelamente, circa 8 anni fa, abbiamo aperto la prima free press del paese e meno di un anno fa abbiamo iniziato l'avventura di Agon Channel. Insomma, quindi in tutto il mondo, in genere, chi fa infrastrutture si fa anche la televisione perché è uno strumento utile. No, ma diciamo che anche l'imprenditore è portato a esplorare altri campi, no? Sì, insomma, questo è vero, però insomma, diciamo che vanno bene insieme. Appunto. Grandi infrastrutture e informazione hanno una capacità, come dire, di in qualche modo indirizzare le scelte. Di completarsi, diciamo. Va bene. Ma lei intanto che televisione si immagina esattamente, il suo progetto editoriale? Guardi, la mia idea è una televisione generalista, non condizionata da chi fa pubblicità. Infatti il mio progetto è quello di produrre in Albania, dove i costi sono nettamente più bassi di altre televisioni europee, parliamo di circa un quinto. Ma tipo All News oppure fate... No, generalista, generalista film, completo. Prodotti, format, news anche, ma non solo. Senta. E poi è quello di trasmetterlo nelle diverse lingue in tutta Europa. Certo. Un budget iniziale di quanto? Guardi, noi abbiamo già investito in Albania tra i 12 e i 15 milioni di euro. In televisione? Sì. E quante persone lavorano nella vostra televisione? Guardi, noi abbiamo assunto 8 mesi fa, quando abbiamo fatto lo start-up, 150 giovani che già fanno una buona televisione, che hanno tanta voglia di migliorare. Ecco, ma in Italia dove si vede questa televisione? Ancora non si vede, questo è il secondo step del nostro progetto. E quando si vedrà? Andrà in onda nei prossimi mesi, nel giro di 3-4 mesi. Sui bouquet di Sky? No, su Digitale Terrestre. E voi avete assunto Alessio Vinci, che è un grande giornalista, che ha una grande esperienza, CNN, Rai, sì. Mediaset, eccetera. Cosa si aspetta come valore aggiunto da Alessio? Beh, da Alessio Vinci mi aspetto che insegni ai giovani come si fa giornalismo per strada con un microfono in mano. E per lui però è anche la possibilità, secondo me, di fare una televisione stile CNN, cioè la migliore televisione possibile, no? Senta, ma state preparando un palinsesto di programmi per l'Italia specifici o no? Sì, il primo step sarà del nostro progetto europeo sarà l'Italia. E l'offerta sarà news, programmi, format, prodotti. Mix 24.